in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Cominciamo anche oggi dalla Zeit. Die Zeit in tedesco significa il tempo ed è, questa cosa mi affascina, è un sostantivo femminile, il tempo in tedesco è femminile. E come sappiamo è un settimanale, ha questo grande formato, vi racconto ormai sempre, avrete capito che mi piace molto questo settimanale tedesco, che tra l'altro è diretto da un italo-italiano, e il titolo principale, la pagina, la copertina è sempre, non contiene mai troppi articoli, 3 massimo 4. Oggi quello principale, nel numero di questa settimana, scusate, non oggi, è dedicato alle elezioni tedesche. Le elezioni si terranno domenica prossima, il 24 settembre, ed è quasi certo, anzi possiamo dire che è certa la vittoria come partito della CDU di Angela Merkel. Molto meno sicuro è la coalizione che ne scaturirà. E da qui il titolo principale della Zeit, Wer kann mit wem? Chi può con chi? E siccome ogni partito in Germania, ma non solo in Germania naturalmente, ha tanti colori, in realtà queste combinazioni possibili sono rappresentate, come vi dicevo, la grafica ha un ruolo importante in questo settimanale, sono rappresentate da 4 acquarelli. Però nella prima pagina, e questa è un'altra cosa che mi piace di questo settimanale, non c'è solo la politica interna, come spesso accade in Italia, ma gli altri due articoli principali sono uno dedicato alla Turchia, che per la Germania naturalmente è sempre fonte di preoccupazioni anche per la quantità di turchi che vivono in Germania, di prima o di seconda generazione, e l'altro articolo alla Corea del Nord. L'Economist invece di questa settimana ha un'apertura simile, se vogliamo. La copertina è dedicata a Angela Merkel. La soluzione grafica adottata è di vedere il viso del cancelliere tedesco Angela Merkel, ma soltanto come se fossero dei giganteschi pixel. Alcuni sono oscurati. Il titolo è Unfinished Business, perché nonostante abbia ormai alle spalle tre mandati come cancelliere, ci sono ancora delle cose che lei può e vuole fare, e da qui appunto un business nel senso di occupazione, nel senso di compito, nel senso di missione che non è finita e chissà se appunto la porterà a termine. Da internazionale vi segnalo un articolo tradotto da Financial Times, molto interessante sullo Yemen, un altro paese di cui non si parla mai, benché sia vittima di una guerra civile. E come sempre dice Giampaolo Musumeci, non è questione di pensare che tanto quello che succede in Yemen non ci riguarda, perché in realtà lo Yemen è uno di quei paesi dove lo scontro religioso, che poi ha portato anche alla nascita prima di Al-Qaeda e poi dell'ISIS, tra le diverse fazioni dell'Islam, è uno dei paesi dove questo scontro è irrisolto. E quindi fermare la guerra in Yemen potrebbe avere tante conseguenze positive per tutti noi. In ogni caso, vi leggo la prima parte di questo articolo. La guerra civile nello Yemen, aggravata dall'intervento dell'Arabia Saudita contro i ribelli Houthi del marzo 2015, sta distruggendo rapidamente ciò che resta del più povero paese arabo. E l'ultima parte dell'articolo è arrivato il momento di porre fine a questa vicenda. Sotto Donald Trump gli Stati Uniti hanno incoraggiato il jihad sunnita promosso dai sauditi per isolare l'Iran sciita. Voi pensate appunto a quanti giochi di potere ci sono dietro l'illusione, perché di questo si tratta, di manovrare, governare, influenzare una guerra civile. Washington, che con l'invasione dell'Iraq nel 2003 ha contribuito a riattizzare l'antico conflitto tra sunniti e sciiti, dovrebbe cominciare a spegnere le fiamme. Stati Uniti, Regno Unito e Francia, i principali fornitori di armi al governo saudita, dovrebbero unire gli sforzi e chiedere un cessate il fuoco e un consistente invio di aiuti umanitari. Poi c'è un'altra vicenda che chi magari ha seguito la rassegna stampa in agosto ha sentito già queste parole, ma sono piccole, piccole grandi ossessioni che poi, alimentate dalla cronaca, mi tornano sempre. In questo caso parlo dei Rohingya, questa minoranza perseguitata in Birmania. E quello che mi colpisce di più è che il ministro degli esteri della Birmania è un premio Nobel per la pace, Aung San Suu Kyi. Il Dhaka Tribune, un giornale del Bangladesh, che è uno dei paesi dove questi Rohingya in fuga, questa minoranza perseguitata, scappa, ha pubblicato questo articolo che è internazionale, come sempre, con grande merito, traduce l'esodo forzato dei Rohingya. Percorrendo a ritroso la rotta della popolazione in fuga, un giornalista è riuscito a raggiungere il Rakhine, lo stato birmano dove le autorità non vogliono testimoni. A proposito di divisioni, perché come se ogni volta che riusciamo a superarne una, siamo capaci noi esseri umani, abitanti di questo pianeta, di crearne una nuova. CTXT, un giornale spagnolo, ha pubblicato questo articolo che si intitola Tra Madrid e la Catalogna, nessuno ha ragione. Sapete che il 1 ottobre si terrà questo referendum che in realtà potrebbe non avere alcuna conseguenza pratica in cui gli abitanti della regione della Catalogna, la cui capitale è Barcellona, saranno chiamati a decidere, a dire se vogliono l'indipendenza dal resto della Spagna. E il sommario di questo articolo recita: lo scontro sul referendum indipendentista è il risultato dell'intransigenza del governo centrale e della demagogia delle autorità catalane. E quindi, ancora una volta, forse appunto cercando di aggirare il problema o per quanto riguarda i politici più in vista, di accantonarlo pensando che siano altre le questioni importanti, poi come una palla di neve si arriva appunto a un referendum che intanto è stato indetto e che, per quanto magari non abbia una vera e propria validità legale, sarà comunque un segnale importante. Il New Yorker dedica la copertina, come sempre, un'illustrazione, perché il New Yorker, la caratteristica principale di questo settimanale americano è di affidare sempre la copertina a un illustratore. Credo che per qualsiasi illustratore americano, europeo, asiatico, di qualsiasi paese, la massima aspirazione sia di firmare una di queste copertine. Quella di questa settimana è dedicata a Houston, alla grande alluvione di Houston, e all'interno ci sono molti approfondimenti e si ricorda anche quella precedente, quella che colpì la Louisiana. Allora il presidente era George Bush Jr. e tutto sommato vengono dimostrate due cose: che è quasi impossibile prevedere questo tipo di uragani e di inondazioni, che l'uragano Katrina non ha insegnato molto neanche in fatto di logistica dell'evacuazione, ma che però comunque la situazione è migliorata anche solo guardando quell'indicatore molto freddo, però purtroppo veritiero, che è il numero di morti, il numero di sfollati, il numero di dispersi. Molto interessante l'articolo che ho trovato su Bloomberg Business Week di questa settimana, che si intitola L'Oreal's Problem with Men. E sapete che in Italia e in tantissimi altri paesi si discute di quote rosa, non soltanto per cercare di avere una forza lavoro equamente divisa per tutti i livelli di un'eventuale scala gerarchica equamente divisa tra uomini e donne. E la cosa strana è che in L'Oreal ci sono le donne sono tantissime anche in posizioni apicali, e questo ha portato a far crollare il numero delle richieste di lavoro, dell'invio di curriculum da parte di uomini, come se, essendosi fatta questa fama di azienda che dà molto spazio alle donne, avesse un po' spaventato i candidati uomini che preferiscono, ripeto, per qualsiasi tipo di posizione, rivolgersi, mandare il proprio curriculum, le proprie credenziali, aspirare a un colloquio in altre aziende. Torniamo un attimo alle elezioni tedesche. La Süddeutsche Zeitung ha pubblicato un articolo in cui il candidato, l'avversario di Angela Merkel, Martin Schulz, che è del Partito Socialdemocratico, sta già dettando le condizioni per entrare in quella che abbiamo detto potrebbe essere la coalizione che scaturisce dalle elezioni. Le condizioni sono uguaglianza, guarda caso, tutto torna, tutto si lega: uguaglianza dei compensi per uomini e donne, abolizione dei contratti a tempo determinato senza motivazione e abolizione delle tasse sulla scuola materna. Quindi tre temi molto tra i cavalli di battaglia dei partiti socialdemocratici che Martin Schulz vuole mettere in chiaro fin dall'inizio. Molto interessante un articolo apparso sul sito voxeurope.eu che vi consiglio sempre, che non mi stanco mai di consigliarvi, perché questo riguarda cosa su quello che succede ed è un lavoro di data journalism promosso dalla European Data Journalism Network, che si propone di spiegarci qual è, cosa ci lasciamo dietro quando, come turisti, soprattutto agostani, torniamo nei nostri paesi. Finite le vacanze, dietro ai turisti che rientrano verso casa rimane una grossa scia di rifiuti. Secondo l'Istituto Maltese di Statistica, la quantità di spazzatura generata da un turista, pensate, è circa il doppio rispetto a quella di un residente di qualsiasi meta turistica europea. Per molte mete turistiche l'impatto è acuito da sistemi di smaltimento o di raccolta differenziata obsoleti. Quindi pensiamoci, effettivamente forse siamo tutti un po' più rilassati, spreconi quando siamo in vacanza. Ultimissima segnalazione per oggi, ve la faccio da Financial Times che ha parlato di Italia e ha confermato, dopo che potremmo elencare innumerevoli articoli di segno opposto, che in effetti in Italia la ripresa ora c'è. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.